Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Reggio Emilia, anni 70. Alceste Campanile è un giovane di 22 anni. Alceste Campanile è un ragazzo alto un po' più della media, capelli castani, occhi azzurri, snello, un carattere aperto e leale. Ama la musica, suona la chitarra elettrica in un complesso della zona e legge libri, narrativa, saggistica, soprattutto gialli. A Reggio Emilia, Alceste Campanile è conosciuto come leader del Circolo Ottobre, un'emanazione di Lotta Continua. Ma alcuni anni prima, ai tempi della scuola, Alceste milita nelle organizzazioni di estrema destra. Un fascista dichiarato che passa a sinistra in poco tempo. Una maturazione, diranno i compagni. Un tradimento, sosterranno nei volantini i camerati reggiani del Fronte della Gioventù. È il 12 giugno 1975, intorno alle 23. Mancano 3 giorni alle elezioni amministrative. Alceste Campanile si trova in località Convoglio, proprio sulla strada che collega Montecchio a Sant'Ilario, nei dintorni di Reggio Emilia. Viene giustiziato con 2 colpi di pistola. Uno alla nuca, il secondo dritto al cuore. La dinamica della sua uccisione risulta però strana. Non esistono segni di alcuna colluttazione. La giovane coppia ritrova il corpo senza vita di Alceste Campanile. Il dottor Francesco Fochi realizza la perizia autoptica sul corpo del giovane Alceste Campanile. La notte tra il 12 e il 13 giugno mi trovavo con alcuni amici, con i conoscenti, in un locale per mangiare un panino dopo aver passato la sera in una riunione a Reggio Emilia. Abbiamo avuto la sgradita sorpresa di avere una coppia di amici, marito e moglie, che di ritorno da una loro serata a Parma avevano rinvenuto sulla strada di Sant'Ilario il corpo di una persona apparentemente giovane, sicuramente o gravemente ferita o morta, per cui erano corsi in paese a chiedere aiuto a qualcuno. Siamo andati a vedere cosa era successo. È stato subito evidente che si trattava di un cadavere. Portava una camicia jeans e una ciubbino jeans, nonostante fosse abbastanza, però pioveva un po', quindi il caldo non era forte, e la giacca era spostata dalla linea mediana. Si vedeva sul taschino della camicia il segno di un foro e con bruciature intorno e una macchia di sangue molto modesta. È incandescente il clima politico che precede l'omicidio di Campanile. L'avvocato Cesare Bonazzi conosce bene la situazione di quegli anni in provincia di Reggio Emilia. Erano anni molto difficili, erano anni di scontri, soprattutto fra i giovani della destra e della sinistra. Erano anni in cui non era neanche possibile andare a teatro a vedere le rappresentazioni di Gian Maria Volonté, perché la questura vietava le rappresentazioni teatrali di Gian Maria Volonté o di Dario Fo. Quindi si doveva ricorrere a dei sotterfugi, come ad esempio il tesseramento Arci, per poter andare a teatro. Quindi potete immaginare quello che era il clima. Questo clima poi si tramutava spesso in scontri di piazza fra giovani di destra e giovani di sinistra. L'avvocato Weiner Buriani ricorda che solo 3 anni prima, a Parma, a pochi chilometri da Reggio Emilia, un altro militante di Lotta Continua, Mariano Lupo, era stato ucciso da militanti di destra. La città reagì in questo modo, reagì come di fronte a un omicidio fascista. Erano i primi probabilmente, perché noi ne avevamo avuto un altro qua poco lontano, a Parma, l'uccisione di Mariano Lupo il 25 agosto del 72. E quindi era inevitabile che la memoria andasse a quell'episodio per tanti. Nel cuore dell'Emilia Rossa questi episodi, e quindi si parlò di questa matrice fascista immediatamente nella città di Reggio. Anche a Reggio Emilia le divisioni politiche sono identiche a quelle riscontrate a quel tempo in Italia. Giovani in cerca di un'identità compiono scelte politiche e ne pagano alle fine le conseguenze, come ricorda l'avvocato Wehner Bureani. Dal punto di vista della collocazione politica stiamo parlando di anni molto particolari, perché Lotta Continua stava comparendo in qualche modo a Reggio Emilia, non era ancora una presenza effettiva e consistente. C'era un partito comunista onnipresente, c'era una frangia della sinistra che aveva intrapreso altri percorsi e dalla quale alcuni militanti già avevano fatto scelte che li avevano portati lontano da Reggio. Quindi Alceste sta in questo contesto. Poche ore dopo l'omicidio di Alceste Campanile partono le indagini della magistratura. 17 giugno 1975. Viene trovato a Parma un volantino dell'organizzazione fascista Legione Europa, in cui si rivendica l'assassinio di Alceste Campanile. Il 18 giugno viene fermato l'esponente della destra eversiva, Donatello Ballabeni. Tutto sembra portare ad una pista di destra, fino al 1 ottobre 1975. I periodici Il Settimanale e Gente riportano le dichiarazioni del padre di Alceste, Vittorio Campanile, secondo cui i colpevoli vanno ricercati fra i suoi amici più recenti, soprattutto quelli che aveva conosciuto negli ultimi 18 mesi, militando in Lotta Continua. Ma quale sarebbe il movente secondo il padre del giovane Alceste Campanile? Alceste Campanile era in possesso di importanti informazioni relative al sequestro di Carlo Saronio, rapito, poi assassinato nell'aprile 1975. Quindi, ad uccidere Alceste Campanile non sarebbero stati elementi di destra, come sostenuto dai suoi amici e compagni, bensì giovani dei collettivi autonomi, come indicato dal padre. Sequestro di Carlo Saronio, primo atto, la dinamica del rapimento. Carlo Saronio è un giovane simpatizzante di estrema sinistra. La sua è una famiglia ricca. Madre e padre sono gli ex proprietari delle industrie farmaceutiche Carlo Erba. La sera del 14 aprile 1975 viene rapito. Muore durante il viaggio verso la sua prigione. All'oscuro del suo assassinio, i familiari pagano una prima rata del riscatto, 470 milioni. È un pagamento al buio, effettuato senza avere la certezza che il sequestrato sia ancora vivo. I soldi vengono consegnati a tre sconosciuti, la sera del 9 maggio, verso le 22, sotto un cavalcavia dell'autostrada Milano-Genova, nei pressi dello svincolo di Bereguardo. Sequestro Saronio, secondo atto, arresti e pentimenti. 19 maggio 1975. La polizia svizzera arresta a Bellinzona tre persone che cercano di cambiare 67 milioni. Le banconote, infatti, sono segnate e sono quelle del sequestro Saronio. Sono state portate in Svizzera, nascoste dentro la bombola a metano di una 127. Una delle tre persone si chiama Carlo Fioroni. Fioroni collabora con la giustizia e parla anche dell'omicidio di Alceste Campanile. Il buco nella bombola di metano della 127, secondo Fioroni, sarebbe stato fatto in un garage a Reggio Emilia. Alceste Campanile avrebbe assistito alla scena. Sequestro Saronio, terzo e ultimo atto, i quattrini del riscatto. 470 milioni vengono così suddivisi. 160 finiscono nelle mani di delinquenti comuni, chiamati a partecipare al sequestro. Lo dirà uno di loro, Carlo Casirati, al processo. 67 verranno ritrovati nelle mani di Carlo Fioroni, amico di Saronio. Restano 243 milioni, di cui si perdono le tracce. È la fetta più grossa del riscatto arrivata a Reggio Emilia. La somma è finita nelle mani di un gruppo extraparlamentare reggiano. Il gruppo ha ideato ed eseguito il sequestro con l'aiuto di Fioroni e di delinquenti comuni per finanziare la propria attività. Febbraio 1979. Il quotidiano Lotta Continua pubblica alcune pagine sull'omicidio di 4 anni prima. È un'inchiesta sulla morte di Alceste Campanile, un'indagine collettiva, come nello stile di quegli anni, il giornale avverte. Chi ha qualcosa da dire, parli. L'omertà è uno stile mafioso. il comunismo non ha niente a che vedere con la mafia. A quel tempo il senatore Marco Boato era un giovane dirigente di Lotta Continua. Abbiamo cercato di ricomporre tutto il quadro. In primo luogo c'era la meccanica dell'uccisione che fin dall'inizio ci aveva molto insospettito. C'è una meccanica da esecuzione a freddo che era diversa dalla meccanica solita, diciamo così, tragicamente solita di certi agguati fascisti. La seconda cosa erano delle voci che avevano cominciato a circolare dalla fine del 77 in poi, o dalla metà del 77 in poi, in ambienti, diciamo così, genericamente dell'area dell'autonomia emiliana, del tipo state attenti a non fare la fine di Alceste Campanile, che faceva ipotizzare che qualcuno in quell'area sapesse che Alceste Campanile era stato ucciso, per così dire, dalla sinistra. Il terzo elemento era il fatto che il padre, pur facendo un polverone, cioè pur accusando una quantità di gente di cui la maggior parte ritengo innocenti, aveva comunque insistito molto sulla connessione fra l'uccisione di Alceste Campanile e l'omicidio Saronio, e noi avevamo assunto almeno come ipotesi positivamente questa accusa. L'ultimo elemento, che anche dall'interno di un carcere ci erano arrivate delle segnalazioni molto vaghe, ma delle segnalazioni in questa direzione, che congiunte con gli altri indizi, diciamo così, o sospetti che c'erano emersi precedentemente, ci avevano portati a formulare questa ipotesi e a decidere di presentarla pubblicamente come atto di denuncia politica e morale. Tra poco, dopo la pausa, torna il racconto del giallo e nero sull'omicidio di Alceste Campanile. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. 1999, 20 anni dopo, arriva la svolta. La svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Alceste Campanile. Viene arrestato un bandito, Paolo Bellini. Lui viene fermato per furti e rapine, fatti di normale criminalità. Ma davanti ai magistrati Paolo Bellini confessa. Sono stato io ad uccidere Alceste. Ero da solo la sera del 12 giugno 1975. Ma chi è in realtà Paolo Bellini? Bellini è un ex estremista di destra di Reggio Emilia, considerato vicino all'area di Avanguardia Nazionale. Latitante per la prima volta nel 76 scappa all'estero, in Sud America. Poi lo ritroviamo in Italia, a Fontassieve, alla guida di un carico di mobili rubati. Finisce in carcere col nome di Roberto da Silva. Strano. In galera sotto falso nome. Del resto non è facile identificarlo, dato che le sue impronte sono sparite dagli archivi. In carcere Paolo Bellini conosce un mafioso coinvolto nella strage di Capaci, Antonio Gioè, e più tardi si ritrova a fare in un certo senso da ambasciatore tra lo Stato e la mafia durante le stragi del 93. Strano tipo, Paolo Bellini, o Roberto da Silva, o Luigi Lembo, come si fa chiamare. Paolo Bellini spiega così i motivi dell'omicidio. Paolo Bellini conosce da tempo Alceste Campanile. I due sono coetanei e nel loro passato hanno militato nel Fronte della Gioventù, organizzazione di destra. Bellini e Campanile se ne andranno dal gruppo per motivi diversi e opposti. La notte del delitto, Bellini cerca Campanile. Lo trova poi sulla strada mentre chiede un passaggio in autostop. Così Bellini lo raggiunge con la sua vettura e con un escamotage lo fa salire. Con una scusa lo porta in un viottolo nelle campagne di Montecchio. Sotto la minaccia della pistola lo fa scendere dalla vettura e gli ordina di inginocchiarsi. Alla fine gli spara. Due colpi alla nuca e al cuore. E questo è il passaggio più importante della lunga deposizione di Paolo Bellini davanti ai magistrati. Frequentavo il movimento sociale e la Giovane Italia come Alceste Campanile. Poi lui andò a Lotta Continua, si iscrisse all'università. Una sera Campanile, insieme ad un altro giovane, tentò di compiere un attentato incendiario contro l'albergo della mia famiglia alla Mucciatella, sulle colline tra Puglianello e Albinea. Il 12 giugno 1975 stavo andando a Parma. Era sera. Ero tra Montecchio e Sant'Ilario. A un certo punto vedo uno che fa l'autostop. Mi avvicino e riconosco Alceste Campanile. Penso, adesso gli do il passaggio. Mi sono fermato. Ho aperto lo sportello, stando chinato. Dove vai? E lui mi disse, vado a Montecchio. Dai, sali che ti do un passaggio. Lui non mi riconobbe perché era buio. Avevo una pistola. Lui salì. Parlammo di quando era venuto a casa mia con la tanica di benzina e lui insisteva che i fascisti andavano eliminati. Visto l'accanimento, io dissi, beh, adesso scendi qui. Gli dissi, mettiti in ginocchio. Lui si mise in ginocchio e dissi, pensi che io sto scherzando? Mi è partito un colpo, forse dalla rabbia. Mi ricordo dall'alto verso il basso, alla nuca. Paolo Bellini elenca nomi e cognomi di tutti i suoi complici. Con lui sull'auto c'era Roberto Leoni, figura di spicco di avanguardia nazionale di Reggio Emilia, ora commerciante. Leoni avrebbe sparato il secondo colpo. Secondo Paolo Bellini, il mandante dell'omicidio di Alceste Campanile sarebbe Giulio Ennio Firomini, di Massa, anche lui di avanguardia nazionale negli anni 70. Firomini avrebbe impartito l'ordine e fornito l'arma del delitto a Bellini attraverso i coniugi parmensi Piercelso Mezzadri e Franca Tanzi. Il motivo? Il gruppo intendeva punire Alceste Campanile perché passato dalla militanza nella Giovane Italia a lotta continua. L'avvocato di Reggio Emilia, Cesare Bonazzi, sostiene che Alceste Campanile era stato accettato da Lotta Continua. Non era dunque nessun rancore per i suoi trascorsi nei gruppi di destra. Era un fatto che per la sinistra, però, e soprattutto per Lotta Continua, non aveva mai costituito un problema. Campanile aveva cambiato idea e per le sue battaglie, per i suoi scontri, per tutto quello che aveva fatto per Lotta Continua veniva considerato un lottatore continuo, ma continuo nel vero senso della parola, a tutti gli effetti e con tutti i sacri crismi. Roberto Leoni, Piero Firomini, Piercelso Mezzadri, Franca Tanzi sono iscritti nel registro degli indagati dalla magistratura di Reggio Emilia, titolari dell'ultima indagine sulla morte di Alceste Campanile. Ma è credibile la versione fornita agli inquirenti da Paolo Bellini, l'avvocato Domenico Noris Bucchi? Relativamente al processo di Reggio Emilia, in cui Bellini chiamava in correità altre persone in relazione a determinati omicidi, queste persone chiamate in correità sono state assolte dagli omicidi. Io non posso dire che la Corte d'Assise abbia accolto in pieno la nostra tesi sull'inattendibilità di Bellini. Dalla lettura del dispositivo che ha assolto i chiamati in correità da Bellini, si può però supporre quantomeno che le dichiarazioni di Bellini non siano state riscontrate, quindi che la Corte d'Assise non abbia ritenuto riscontrate adeguatamente le dichiarazioni di Bellini. Tutto chiaro? Per la giornalista Francesca Chilloni restano ancora aspetti non chiariti nell'indagine sull'omicidio di Campanile. Paolo Bellini è una persona estremamente intelligente e astuta, quindi è estremamente difficile comprendere il motivo per cui abbia confessato l'omicidio Campanile. Paolo Bellini, quando si pente, ha interesse ad essere credibile, a fare affermazioni fondate, riscontrabili sulla base di prove, e ha anche interesse ovviamente anche a chiamare in correità altre persone, e questo al fine di ottenere ovviamente i benefici del programma di protezione. Un'altra ipotesi è che decida di confessare questo delitto per mettere definitivamente una pietra tombale sopra a uno dei delitti che hanno insanguinato Reggio Emilia che non sono risolti, che rappresentano tuttora motivo di discussione, angoscia, e quindi Bellini decide di fare un favore a qualcuno, di accollarsi anche a questa responsabilità e chiudere definitivamente dopo una trentina di anni questa vicenda. L'indagine ruota dunque intorno alla figura poco lineare di Paolo Bellini, ma il vero movente dell'uccisione di Alceste Campanile resta ad oggi ancora nell'ombra. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.